Kellogg, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi, come è stato ricordato già da molti colleghi che mi hanno preceduto a questi microfoni, è quello che viene celebrato come il giorno della memoria. Il giorno memoria è il giorno in cui si ricordano tutte le vittime della Shoah, delle persecuzioni nazifasciste. In particolare in questo giorno io vorrei parlare di diritto all'oblio, un altro termine che ha un sapore di storia, di qualcosa che sembra sfuggire all'attualità, alla modernità, alla velocità, alla rete, che è il luogo in cui si è cominciato a parlare di diritto all'oblio. Il giorno della memoria innanzitutto è anche un giorno in cui la rete diventa uno strumento anche importante per mantenere la memoria, per non dimenticare. La casa editrice Murzia pubblicherà sul suo sito i nomi dei 23.826 italiani deportati per motivi politici nei lager nazisti, quindi tutti quelli che sono stati deportati come prigionieri di guerra o perché erano detenuti nelle carceri italiane oppure erano considerati dei pericolosi agitatori politici, o perché erano ebrei, o perché erano semplicemente lavoratori emigrati in Germania in quel periodo. Beh, saranno tutti impossibilitati ad essere dimenticati perché messi in rete. Allo stesso tempo la rete diventa il luogo in cui la società contemporanea, la società della condivisione, di cui stiamo più tenacemente parlando da qualche settimana, ha impensato e immaginato doversi cominciare a porre il limite appunto della memoria, dell'esagerato prolungarsi la memoria. Ognuno di noi che colloca qualcosa di sé, ad esempio in un social network, oppure viene citato da qualcun altro in rete, oppure viene taggato in alcune fotografie che vengono pubblicate in rete, probabilmente oggi non se ne rende conto sufficientemente, oggi può anche essere piacevolmente colpito da questa operazione o autonomamente pone informazioni personali di sé nella rete. Io guardavo pochi minuti fa un'amica mia che ha scritto: ah, ieri sera non ho fatto in tempo ad andare in palestra, mi sono messa sul divano a bermi un limoncello. Frase del tutto banale, una comunicazione amici e amiche, quella sera se ne stava relax a casa sua. O probabilmente messaggio subliminale, messaggio segreto a chi poteva andarla a trovare, o rassicurazione a chi magari stava in ansia per la sua fuoriuscita in palestra. Ci sono un'infinità di sottosignificati a questa frase, io potrei leggerli, interpretarli, potrei anche infischiarmene. Ma fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni, data la strutturazione oggi del prodotto del buon Zuckerberg, che dà la possibilità di reperire giorno per giorno, anno per anno, mese per mese, ogni post pubblicato, per ricordarmi che io quel giorno del 2012 la mia amica era sul divano a bersi il limoncello. Potrà in qualche maniera usare, rinfacciare, ricordarle questa cosa, e lei potrebbe non aver più voglia che questa cosa fosse ricordata. E quindi cosa accade? Accade che qualcuno si comincia a porre il problema del diritto di cancellare l'infinità di dati che noi mettiamo in rete. Mettiamo per desiderio di esistenza, mettiamo per alimentare quella che è la vera radice del social networking, è affermare la propria esistenza attraverso la celebrazione dei microattimi della propria vita, attraverso le proprie foto, attraverso i propri pensieri, attraverso la propria espressione, il proprio giudizio sulla contemporaneità. La Commissione europea si sta ponendo questo problema e appunto ha elaborato una proposta che avrà un suo iter, ma se l'iter andasse felicemente avanti diventerebbe una legge che tende proprio a rivedere la posizione di chi mette i propri dati in rete. Cosa farne? Qualcuno dovrà in qualche maniera provvedere a toglierli, se noi vogliamo toglierli, o dovrà dirci con esattezza cosa ne fa di ogni nostro respiro che mettiamo in rete. 800240024, questo è l'argomento di questa mattina e penso che potrà toccarvi di persona, perché la maggior parte di voi che mi ascoltano sono già pronti a scrivere su Twitter il giudizio rispetto a quello che dico, sono già pronti a mandare sui profili Facebook immagini, suggestioni, impressioni. Immaginate che io questa mattina vedo sulla stampa un bel pezzo di Giuseppe Bottero che è un'inchiesta su quanto conti relativamente un curriculum per trovare o per proporsi a un posto di lavoro, quanto conta invece è ciò che noi mettiamo in rete. I cacciatori di teste cominciano a dire espressamente che loro valutano una proposta di lavoro o un profilo professionale non soltanto sui dati ufficiali che noi consegniamo, quindi che abbiamo controllato, che abbiamo certificato, che abbiamo centellinato, osservato e considerato fino all'ultima virgola, ma anche su quello che distrattamente potevamo aver messo in rete. E forse anche quel limoncello sorbito sul divano potrebbe essere un motivo discriminante anche per la mia amica. 800240024. Se guardo il mio profilo di Facebook vedo le copertine dei giornaletti zozzi che avete pubblicato ieri, perché era entrato in gioco l'argomento. Come potrei essere giudicato io se fossi ancora in età di offerta di lavoro da qualcuno che guardasse il mio profilo Facebook? Questa è la domanda. Domanda che io giro al primo ospite questa mattina in studio, che è l'avvocato Rosario Imperiali. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Che è presidente del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Privacy. Noi ci dobbiamo porre con una complessità che probabilmente ancora chi naviga in rete non si è assolutamente messo come punto di arrivo di fronte a questo problema. Cosa sta pensando, immaginando e proponendo la Commissione Europea? Così partiamo subito da quella che è la notizia, perché parliamo di questo argomento che esiste da quando esiste la rete. Zucconi su Repubblica qualche giorno fa cita un giudice della Corte Suprema che nel 1890, quando uscì la prima macchinetta fotografica Kodak, disse: fine della privatezza, con questa macchina diabolica nessuno di noi avrà una vita privata. Sì, ora come allora ci sono, non appena si introduce un discorso così ampio, così complesso, immediatamente possono essere sollevati dei retropensieri, si immagina immediatamente quali possono essere le complessità applicative che indubbiamente ci sono, però io credo che sia molto importante sottolineare il principio. Il principio è secondo me molto semplice, cioè l'utente che naviga in internet è portato a rilasciare una serie di informazioni, alcune volontariamente, altre non volontariamente, perdendone il controllo. Il tentativo della Commissione è quello di in qualche modo di far riacquisire il controllo da parte dell'utente, quindi attraverso questo che viene chiamato, forse per un'esigenza più di attenzione mediatica, diritto all'oblio, ma che altro non vuole essere che la possibilità di chiedere che quel dato, quella informazione venga cancellata. Lei mi diceva, avvocato, questo termine diritto all'oblio è qualcosa di arcaico, epico, che sembra non appartenere alla nostra epoca. Mi sembra interessante questo fatto di che lei ha già citato, di questa antinomia che c'è tra oblio ed internet, no? un termine arcaico verso lo strumento di maggiore attualità, un contrasto palese, insomma, evidente. E probabilmente proprio con questo si è voluto dire anche nel linguaggio comune, noi quando parliamo di oblio diciamo è caduto nell'oblio, cioè vuole dire quasi un vortice del buio, dell'oscurità. Non è mai volontario l'oblio, è una cosa che ti rapisce. Sì, è qualcosa di subito, quindi il fatto di dire che c'è un diritto a una negatività è in se stesso un ossimoro. No? Anche perché sembra antitetico, oggi il web partecipativo per come è costituito si fonda il suo successo sulla possibilità che da ogni di esistenza oltre l'esistenza certificata nella vita concreta. Per questo io credo che è un po' come il discorso della privacy, che è un termine che è stato utilissimo nella prima fase implementativa per far capire all'opinione pubblica più o meno di che cosa si parlasse, ma che poi dopo è stato un termine che ha costretto molto, anzi a volte ha creato delle difficoltà, perché in effetti non si parlava di privacy nel senso di riserbo, di riservatezza o del diritto di volersi nascondere da qualcheduno, ma piuttosto invece nell'opposto, nel diritto di utilizzare i dati in un certo modo, quindi più di metodo che non di oscurità. Cioè il giorno che si è capito che i dati di ognuno di noi hanno anche un valore economico e commerciale, oltre diciamo la possibilità di essere strumentalmente usati a nostro danno, a nostro discredito o perlomeno oltre la nostra volontà, ci si è anche posto questo problema. Cosa ne fai di tutto quello che io metto in rete? Anche perché lo scambio sembra uno scambio vantaggioso per noi. Zuckerberg ci mette a disposizione un sistema che ci dà felicità, riempie il nostro tempo libero, ci permette di acquisire relazioni, per molti anche uno strumento concreto di piacere. Ieri le Iene hanno fatto il servizio di un ciarlatano che si spacciava per bulgari, metteva foto dei negozi bulgari e razzolava ragazzine di coscia allegra che ben contente erano di andare a letto con bulgari, ma doveva ringraziare Zuckerberg di questa sua fantastica possibilità di turlupinare le ragazzine. E in cambio probabilmente ne ha un grosso vantaggio, perché altrimenti non sarebbe lo sfantamiliardario che è. Professor Francesco Pizzetti, buongiorno, garante della privacy. Buongiorno. Lei cosa ha da dire su questo lavoro della Commissione europea? È auspicabile che qualcuno cominci a porsi concretamente il problema e usciamo, diciamo, dall'incertezza all'interpretazione? Ma intanto avrei da dire che, per continuare il discorso che facevate, io sono il garante della protezione dei dati personali, non della privacy, no? Perché appunto il concetto di privacy è molto, induce in molti equivoci, mentre la protezione dei dati personali riguarda appunto la protezione delle informazioni che riguardano una persona fisica. Ma non trova che ormai lo slittamento lessicale fa un po' coincidere le due cose, almeno nell'uso comune? L'uso comune modifica il senso delle parole. Ma il senso delle parole può essere ripristinato anche rispetto all'uso comune, ma comunque, insomma, al di là del tema, noi proteggiamo i dati personali, poi se decidiamo che chiamiamo privacy la protezione dei dati personali va benissimo, e quindi la protezione dei dati personali dagli usi illeciti. E di conseguenza il problema riguarda quando un mio dato è usato illecitamente, in molti casi è necessario il consenso, in molti casi quando è la pubblica amministrazione o la giustizia o la polizia ovviamente no, la pubblica amministrazione mi deve informare e così via. Ora, questo regolamento è innanzitutto la conseguenza dell'adattamento della regolazione europea al Trattato di Lisbona, non va mai dimenticato. Il Trattato di Lisbona ha unificato i pilastri, ha reso il diritto alla protezione dei dati personali un diritto fondamentale e ha stabilito come regola dei trattati l'indipendenza delle autorità. E che anno parliamo, professore? Dunque del 2009, quando è entrato in vigore. Quindi, ovviamente, date queste innovazioni, bisognava adottare una regolazione europea coerente. Infatti il regolamento dedica largo spazio sia alle norme sulle autorità indipendenti, che finora sono state poco sottolineate ma sono molto importanti, perché omologa come criteri generali le autorità indipendenti, ne garantisce appunto l'indipendenza, impone l'assegnazione di risorse che non siano condizionate alla volontà dei governi, stabilisce che debbano avere poteri di enforcement e stabilisce anche un complesso sistema di relazioni fra di loro che è finalizzato ad assicurare non solo che la normativa sia la stessa, perché questo è l'effetto del regolamento, ma anche che il modo di applicarla indipendentemente dallo Stato e dall'autorità coinvolta sia sostanzialmente analogo attraverso un lavoro di cooperazione fra le autorità. Allora, scusi, professor, diamo per scontato che questa proposta, seguendo il suo naturale iter, diventi legge, venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi nel giro di qualche settimana diventa legge per tutti. Cosa accadrebbe? Qualche settimana la vedrei difficile, perché questa proposta adesso deve andare al Parlamento europeo. Sì, ma tutto l'iter, Consiglio, Parlamento. Diciamo, se tutto va bene, fra un anno e mezzo diventi sia approvata definitivamente nell'ambito del procedimento europeo. Ecco, una volta pubblicata sulla Gazzetta, da lì a 20 giorni diventa legge. Cosa accade di diverso rispetto a quello che gli Stati membri, quella diventa la legge in vigore e quindi sono norme direttamente e immediatamente vincolanti. Tutti gli Stati membri, tutti i soggetti che in quegli Stati membri trattano dati personali, cominciando dai cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione, i giudici e poi naturalmente anche le autorità di protezione dati. Quindi il grande salto è che avremo non più delle leggi nazionali, ma una legge europea uniforme, uguale per tutti i Paesi membri, che si impone a tutti gli Stati e quindi a tutti i soggetti, a chiunque debba applicare una legge di protezione dei dati negli Stati europei, quella sarà la normativa da applicare. Grazie professor Pizzetti per averci chiarito questo punto, però vorrei entrare più nello specifico con Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, l'avete sentito più volte, professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Andrea, buongiorno innanzitutto. Rossetti? Sì, ci sono. Ecco, non devo sentire. No, quello che mi viene da pensare, io do per scontato e vado avanti, che la legge sia stata già approvata, anzi è diventata legge. cosa accade tecnicamente? Come dovranno organizzarsi proprio tecnicamente tutti coloro che gestiscono dati? Perché si è tutti portati a pensare, leggo i grandi titoli sui giornali, il diritto all'oblio, via dicendo, che allora io, la mia amica famosa sul divano con il limoncello, dice, beh, quella cosa voglio che sia tolta. E può vedere qualcuno a toglierla? E quanto deve attrezzarsi economicamente ogni gestore di dati personali poi per rispondere a tutte le richieste individuali? Questo è il grande problema di cui si sta dibattendo in questi giorni. Il sito dell'Europa è pieno di informazioni su questa nuova legge che dovrebbe essere promulgata. Sono davvero molte e la regolamentazione è dettagliata e complicata. Uno dei problemi che pare potrebbe portare questa nuova legge per le ditte che si occupano, che trattano direttamente e indirettamente i dati personali, è per loro il doversi attrezzare tecnicamente con un sacco di meccanismi molto costosi. Ma sono fantamiliardi questo, perché se per assurdo dovrebbe rispondere alle richieste di ogni singolo, perché il suo diritto vedere la cancellazione, la modifica o la verifica dei propri dati personali, cioè ti rendi conto che volume di lavoro, ma anche risorse umane impiegate in questo lavoro, a parte la tecnologia che risolve tanti problemi? Sì, sicuramente sì, già queste ditte, in realtà quelle più grosse, insomma, hanno degli uffici che si occupano delle richieste, che sono effettivamente anche in un paese piccolo come l'Italia a volte centinaia in una sola giornata, quindi effettivamente il problema dell'impatto di queste norme sull'economia di queste ditte, poi il problema non è tanto le grandi ditte, no, perché loro appunto guadagnano fantamiliardi e quindi fantamiliardi possono tutto, alcuni di questi fantamiliardi li possono impiegare per proteggere i nostri dati o per ottemperare a quello che è la legge. Il problema sono le piccole start-up, le piccole industrie, effettivamente le piccole società che vogliono trattare i nostri dati personali a fini più che legittimi. Per loro effettivamente questo potrebbe essere un problema. Però non dimentichiamo che quello che è in gioco qui è la possibilità che noi abbiamo di definire la nostra identità, no? Quello che hai detto tu all'inizio, che ormai i cacciatori di teste guardano, o coloro che fanno reclutamento personale guardano quello che c'è online, è davvero importante, no? Perché a volte io non ho attenzione a quello che metto online ed effettivamente mi posso pentire di aver messo quella particolare foto, quindi è chiaro, mi sembra evidente, no, che sia mio diritto poter far sì che questa foto scompaia. Che sia mio diritto non vuol dire che poi sia tecnicamente semplice o addirittura in alcuni casi tecnicamente possibile. Questi sono due cose diverse, no? Qui giochiamo, questi discorsi sono sempre su due piani che sono distinti. A parte che esistono siti lì come Internet Archive, che si può andare a vedere anche le cose di 20 anni fa che erano in rete, bisogna capire se potranno esistere ancora questi strumenti sul web. Sentiamo qualche ascoltatore. Antonella. Buongiorno. Sì. Io volevo condividere una riflessione. Non mi sono iscritta a Facebook perché non avevo... Ma non è un partito in cui ci si iscrive? Va bene, però avevo l'impressione che appunto ci fosse questa esigenza di manifestare la propria esistenza pubblicando qualunque piccolo dettaglio della propria vita, insomma io non avevo queste esigenze. Ma non è un obbligo, cioè persone che aprono un profilo semplicemente per comunicare però, una onlus. È vero. Però la riflessione che volevo fare è questa. Io innanzitutto il diritto all'oblio secondo me è sacrosanto, però mi chiedo, non provocherà questo forse una deresponsabilizzazione delle persone che a quel punto si sentiranno in diritto di pubblicare qualsiasi cosa, tanto può essere cancellata? Voglio dire, alla fine uno se pensa prima a quello che vuole che sia pubblicato e quello che vuole rendere pubblico, forse... Adesso sentiamo i nostri ospiti, le posso dire in anticipo che è un po' perché un oggetto digitale una volta pubblicato in rete in realtà rimarrà sempre in eterno, basta che io me lo salvo nel mio computer, che lo copio, che lo appoggio da qualche parte, quindi nulla si cancellerà mai, questo deve essere un principio. Sentiamo adesso Riccardo, poi sentiamo l'avvocato Imperiali su queste telefonate. Riccardo. Buongiorno, sono Riccardo da Bologna. Sì. Io sono un operatore dell'informatica, per tasti dall'81 per intenderci. È d'accordo che è incancellabile un oggetto digitale? Bravissimo. È assolutamente impraticabile quello che si pensa, cioè l'oblio non può esistere nel mondo digitale. Chiunque può avere su una chiavetta recondita, su un portatile, da qualche parte un'immagine scaricata. In una cache di un computer dimenticato? Assolutamente. Nel temporary storage della cartella Pinco Pallino, il file e lo posso recuperare quanto voglio. Secondo me il principio è un altro. Intanto un discorso dei minori nel mondo dei social network è un argomento molto delicato. E inoltre i minori che però finché sono minori sono dell'idea che dovrebbero avere dei genitori che tutelano le loro azioni nel mondo concreto e nel mondo inconcreto, hanno dei genitori che sono responsabili. Quindi, non è un obbligo della rete occuparsi dei minori quanto infatti quindi il concetto è di cultura. Una legge non può diciamo che può sollevare un problema in questo caso, ma non lo può risolvere, perché in questo caso io credo si debba lavorare sulla cultura dell'informazione, sulla cultura dello strumento e sapere quello che si fa. Perché io ho il mio profilo dappertutto, Facebook, Twitter, ovunque, però Dio me ne scampi libero di pubblicare la foto ai miei figli o anche di un amico. Se pubblico una foto è la mia, so quello che faccio perché ho capito lo strumento. Mi sembra chiaro, Riccardo. Melog, la realtà condivisa. Come c'è un diritto alla memoria, di cui oggi si sta appunto celebrando la giornata, esiste un diritto all'oblio. Oblio, termine che stiamo definendo come antico, desueto, appartenente forse all'epica, è qualcosa che non cozza con la lussura dell'apparire, dell'essere, dell'esistere, di essere ratificati, tutte lecite espressioni dell'essere umano, che è la chiave fondante della rete partecipativa. 800240024, questo è l'argomento del giorno. Abbiamo lasciato in sospeso due domande di due ascoltatori che ponevano l'una il problema della persona che dice: io me ne sto fuori, non entro dentro, non voglio raccontare i fatti miei, denunciando però il sottile desiderio di qualcosa che considera proibito, da cui si astiene. È come il fioretto di un seminarista dire: non mi iscrivo a Facebook. L'altro, un informato che dice: non ci prendiamo in giro, un oggetto digitale è per sua natura incancellabile quando viene condiviso in rete, comunque rimane un pertugio in cui resterà nascosto. Avevo chiesto all'avvocato Rosario Imperiali, che ricordo presidente del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Privacy, di rispondere a queste due domande. Sì, grazie. Senta, io, se mi è possibile, un brevissimo inciso, perché la sua sollecitazione su memoria e oblio proprio mi stimola in questo senso. Io credo che memoria e oblio siano due elementi fondamentali di una società democratica e rispondono entrambi a un'esigenza di giustizia. Cioè la memoria tende a evitare, cioè di fare luce sulle ingiustizie di massa e quindi evitare il perpetrarsi di queste ingiustizie. Allo stesso tempo l'oblio tenta di evitare che si compiano ingiustizie attraverso un utilizzo improprio di queste informazioni. Quindi non è un apparente contrasto. Si usati male due strumenti tipici delle dittature. La dittatura infatti, si basa sul ricatto, infatti, guardi, sul ricatto sulle vite personali e sul cancellare le realtà che potrebbero essere imbarazzanti per mantenere il potere vessatorio. Precisamente, le schedature di massa sono tipiche dei sistemi dittatoriali. E è anche molto interessante che soprattutto nelle esperienze per esempio della Stasi, laddove c'è stata una schedatura di massa permanente dei cittadini di quei paesi, il sistema democratico subentrato è intervenuto in modo reattivo con la trasparenza, non con l'oblio. Infatti, e questo è un aspetto estremamente interessante. Noi tutti consideriamo la trasparenza come il punto di arrivo più sublime del nostro vivere democratico, e allo stesso tempo però sentiamo il bisogno di ritirare fuori questa idea dell'oblio. Questo ci fa capire come questi principi, e vengo poi alla risposta delle allora due... non ha ragione Zuckerberg quando dice andrà rivisto il concetto stesso di privatezza. No, Zuckerberg in verità canta il De Profundis della privacy, cioè la privacy è morta. Però tanto che non ha ragione che poi alla fine del 2011 ha dovuto sottoscrivere una transazione con l'FTC, la Federal Trade Commission, che è l'agenzia federale che governa, diciamo, il buon modo di comportarsi in internet, per semplificare, e ha dovuto sostenere che probabilmente qualche cosa aveva sbagliato. Quindi voglio dire, il sistema democratico è fatto di pesi e contrappesi, quindi se noi estrapoliamo fuori contesto un principio come può essere il principio dell'oblio, e ripeto, vengo alle due domande, e lo portiamo a delle esasperazioni, ovviamente perdiamo questo bilanciamento tra peso e contrappeso e ne evidenziamo l'illogicità. E non facciamo un buon servizio al nostro sistema democratico. Diciamo chiaramente che il trasferimento in rete, cioè un luogo speculare parallelo del mondo concreto, determinerà la necessità di ripensare tutto il sistema che regola i rapporti fra gli esseri umani. Sì, come d'altra parte non si vuole minimamente ridurre quel sistema di libertà che internet ci consente. Quindi all'indicazione della deresponsabilizzazione, il rischio di deresponsabilizzazione che evidenziava l'ascoltatrice, mi sembra un po' paradossale, perché è come dire che siccome abbiamo messo l'airbag nelle auto, certo, incentiviamo gli autisti a andare al massimo della velocità o a velocità folli. Quindi ogni cosa, soprattutto nei principi nuovi, bisogna cercare di applicarli con ragionevolezza. Nella seconda osservazione, cioè che il dato è permanente, non lo si può cancellare. Insomma, vi sono anche nella realtà, nella vita reale, esempi di permanenza. E con questo non vuole dire che il legislatore o comunque le regole, le prassi non possono essere applicate. Vorrà dire che quella permanenza deve essere circoscritta da regole di restrizione, in modo tale che quei rischi che sono paventati non si vengano a materializzare. Quindi, per esempio, nel caso di internet vuole per esempio dire che io non consentirò più ai motori di ricerca di tirare fuori informazioni antiche o informazioni per le quali l'utente ha richiesto la cancellazione, ma lo potrò fare solo con delle ricerche specifiche, settoriali, e questo anche per evitare ad esempio che con un solo colpo si possa eliminare tutto il tracciato storico che è presente in internet. Andrea Rossetti, ricordo, professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Non trovi anche te che esistano comunque delle difficoltà oggettive su cui si discuterà e si riuscirà senz'altro a trovare una soluzione rispetto al principio della necessità di dover cancellare qualcosa e l'incancellabilità oggettiva del dato digitale? Sì, sì, è indubbiamente questo, no? la grande contraddizione, in qualche modo. Dal punto di vista tecnologico abbiamo messo l'umanità ha tirato su un'infrastruttura che è fatta per ricordare in qualche maniera, no? È fatta per ricordare in maniera sicura, per potenzialmente non perdere nessuna informazione che circola al suo interno. E per condividere. È chiaro che questa esigenza... E per condividere, dico. Per condividerla, sì, insomma, appunto, nel momento in cui io metto anche solamente per 5 minuti una mia foto da qualche parte, in questi 5 minuti ci potrebbe essere qualcuno che la prende banalmente, la scarica e se la conserva. No? La legge qui interviene in maniera interessante, no? Ovviamente, come al solito, a posteriori, la legge non può prevenire comportamenti o immaginarsi comportamenti futuri. Regolando l'accesso, diritto all'oblio vuol dire, come diceva adesso poco fa l'avvocato, no? Regolare l'accesso a determinati dati, non cancellarli. Anche il garante ha preso una serie proprio di decisioni in quest'ottica, no? Dicendo, alcuni sono lamentati perché appunto negli archivi storici dei giornali erano recuperabili informazioni su di loro che loro non volevano fossero recuperate, e allora il garante è intervenuto dicendo, effettivamente allora bisogna fare in modo che i motori non indicizzino automaticamente questa informazione, anche se questa informazione non deve essere cancellata dall'archivio dei giornali, perché comunque è un interesse storico, comunque è un evento che è avvenuto, no? Gli eventi non possono essere cancellati. Neppure la registrazione degli eventi, è la storia che viene fatta attraverso gli archivi. Si può rendere conto di difficoltà, un giornale che fa un grande investimento economico per mettere un servizio a disposizione dei suoi lettori, l'ha fatto Antigiornale, ha fatto ultimamente anche La Stampa, certo, che è il mio giornale, e siamo tutti contenti, poi di cominciarsi a porre il limite, sì, però quell'edizione, cioè quel pezzo scritto negli anni 50 che parla di quel particolare episodio in cui una persona è stata coinvolta, quella non la potete mettere disponibile a tutti. E quindi c'è una frammentazione di tecnostruttura, di infrastruttura tecnologica che gestisce questi dati. Altresì vero che sappiamo benissimo che le barriere che si pongono in un ambiente digitale non sono certo muraglie di cemento armato impenetrabili, c'è sempre un pertugio da cui si può entrare. Che è sempre un pertugio, e in realtà dal punto di vista tecnico questo non è complicatissimo, perché basta mettere un file all'inizio che dice in pratica il motore di ricerca che quella roba lì non può essere indicizzata. Tecnologicamente di per sé non è complicato, ovviamente è la mole di volte che dovrà essere necessario fare questo lavoro complicato, e soprattutto in molti casi appunto i giornali di per sé non accettano questa richiesta da parte dell'utente, ma si passa dal garante dei dati personali, quindi il rischio potrebbe essere veramente un intasamento in qualche maniera dell'autorità davanti di fronte a un numero estremamente elevato di richieste su cui fino adesso il garante ha agito considerando caso per caso, non ha automaticamente detto che si poteva cancellare o bisognava mettere questo file in maniera che non venisse indicizzato, ha deciso caso per caso, in alcuni casi negando questo diritto all'oblio, dicendo no, che il fatto aveva ancora un interesse cronachistico e quindi in realtà doveva essere lasciato online, almeno però accessibile, anzi ancora per un po' di tempo. Sentiamo qualche... questo è il grande problema, insomma, io credo che in realtà Zuckerberg abbia ragione, no? Se dal punto di vista giuridico la privacy non è morta o è un po' morta dal punto di vista tecnologico, ma questo è dal 1999, se non ricordo male, che viene detto, no? Quello che sta facendo la legge in qualche modo è cercare di far sì di recuperare il concetto di privacy contro l'avanzare delle tecnologie, ma la domanda è fino a che punto diventa efficace. Ho sott'occhio uno dei rapporti che hanno fatto, che sono stati alla base della decisione dell'Europa, di questa nuova proposta dell'Europa. Ecco, 8 utenti su 10 dei social network ritengono di essere in controllo delle loro informazioni. Disaggregando il dato dal punto di vista dell'età, diventa interessante notare che quelli che hanno meno di 25 anni si ritengono in totale controllo dei dati sui social network. Quindi evidentemente la privacy che viene garantita dai social network attualmente ai giovani di oggi, a quelli che hanno meno di 25 anni adesso, basta in qualche maniera, è sufficiente. Sì, non sono più interessati, non sono più interessati poi del fatto che realmente qualcuno possa vedere o non vedere il loro diario quotidiano e personale. Melog, la realtà condivisa. Infatti mi scrive su Twitter Angelo e mi dice: è molto difficile nascondere informazioni sul web, date un'occhiata all'archive.org. C'è una sorta di macchina del tempo in cui è possibile anche rivedere i vecchi siti degli anni 90. E certo, un domani questa cosa non dovrebbe più esistere, o perlomeno dovrebbe essere controllata. Abbiamo gli ascoltatori, avevo detto Cesare, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, proprio l'altro giorno c'era una mia amica che mi diceva che il marito ha trovato la sua foto su un sito di calcio e in cui diceva che questa persona gli piace questa squadra e tutto quanto. Allora potrebbe essere invece, allora non capisco, perché una proposta è quella che i social network, io metto una foto su Facebook, che Facebook marchi la foto, già quella potrebbe essere una buona... Che vuol dire la marchi? È già taggabile la foto, può mettere sulla foto, ci scrive il suo nome e ogni volta che apparirà quella foto sarà evidente, sarà riferito a lei. No, come il mio nome, scusi, eh? Se la moglie del suo amico l'hanno vista, qualcuno l'ha taggata in una foto di cui lei non sapeva probabilmente di essere stata ritratta e quindi è apparso a tutti che lei esistesse. Questo già è possibile farlo. Le è andata bene che era una foto che si parlava di calcio in questo caso, quindi non lede la sua sfera privata e personale, perlomeno affettiva. Poteva andargli peggio se la foto l'avesse rappresentata magari, che ne so, una festa da ballo, un pomeriggio a spasso con una persona che non fosse il marito. Luca. Sì, buongiorno. Io utilizzo social network, utilizzo Facebook, utilizzo Twitter, ma non ritengo sia giusto scaricare su altre la responsabilità della protezione di qualcosa che è nostro. Io sono consapevole dei rischi che ho quando posto delle mie foto. Mia moglie, che è molto più riservata di me, infatti non ha mai avuto un profilo Facebook. In tal maniera che ritengo sia responsabilità di ciascuno proteggere le proprie dati personali e sapere a cosa vanno incontro. Mi sembra quasi che si voglia potersi permettere di tutto senza poi subirne le conseguenze. È quello che dicevamo prima con l'avvocato durante la pausa. Questo sicuramente porterà a un maggiore senso di responsabilità. Oggi non tutti gli utenti del social network hanno la consapevolezza che una foto messa lì può essere vista e presa da chiunque praticamente, a meno che non si facciano delle particolari operazioni sul proprio profilo, che però di default sono molto più aperte le possibilità di vedere, cioè di regola, capito? gli utenti più giovani si pongono un po' meno il problema, per loro già si è abbassato il livello di soglia rispetto alla privacy, ma anche le nostre nonne si mettevano il fazzoletto in testa quando uscivano per strada e gli uomini non uscivano senza cappello e cravatta. Anche noi, riguardo l'esteriorità o la tutela della nostra tenuta estetica, abbiamo fatto dei passi avanti. Avvocato Rosario Imperiali, su questo devo dire qualcosa questa sì sera. Volevo dire una cosa, che l'osservazione dell'ascoltatore ha un senso nel momento in cui si parla di quello che noi facciamo su internet come contenuto delle informazioni che noi vogliamo pubblicare su internet. Ha meno senso se nel momento in cui non si tiene conto che l'informazione ha anche un contenuto esterno. Cioè non basta semplicemente la mia foto, ma la mia informazione varia a seconda del contesto in cui rilascio quella informazione e del tempo in cui, del momento di tempo in cui l'ho rilasciata. Cambiandosi questi due valori, contesto e tempo, cambia anche il valore dell'informazione. Quindi e sono due elementi che internet modifica radicalmente nel contesto, perché internet ha un contesto piatto e quindi decontestualizza. Noi non siamo in grado di poter vedere con un occhio che cosa avviene nel momento in cui il soggetto ha rilasciato quelle determinate informazioni. Citavamo prima la famosa frase dello sfigato che non si laurea entro 18 sì. anni, pronunciata dal nostro... Diciamo è una situazione, il fatto della decontestualizzazione dell'informazione è un fatto che ci riguarda ogni giorno, intacca anche il problema delle intercettazioni. Una cosa è parlare, diciamo l'onorevole Berlusconi lo ha fatto molte volte, una cosa è parlare al telefono tra amici e si possono avere anche delle espressioni di un certo tipo, un'altra volta è decontestualizzare quella frase e memorizzarla su un supporto che non è ben diverso da quello di una comunicazione telefonica. Diventa un epitaffio, una frase sì, storica. E la cosa più grave, diversa dalla intercettazione presente invece in internet, che questa cristallizzazione dell'informazione su internet rimane perenne. Sentiamo Stefano. Stefano che pone un problema secondo me intelligente in questo momento. Stefano. Sì, buongiorno, io racconto la mia esperienza. Io praticamente negli anni 90, quando internet non era diffusa, non c'erano social network, io scrissi su dei newsgroup, gruppi di discussione, per parlare di problemi di salute, problemi miei, chiesi consigli, informazioni, e all'epoca su questi gruppi di discussione l'informazione permaneva per poche settimane, poi andava via dai server. Non sapevo però che c'era Deja, che poi è stato acquistato da Google, che archiviava tutto, con la conseguenza che ora digitando il mio nome nel motore di ricerca compaiono ancora questi post. E Google non li rimuove perché io non ho più accesso a quelle mail con cui ho postato. Ho provato a scrivergli, ma per loro se non c'è il codice fiscale non vengono considerati dati personali. C'è proprio un form che dice che se non c'è il codice fiscale non viene cancellato. L'unica maniera che io ho avuto per diminuire il problema è spammare, cioè fare un sacco di post sul newsgroup inutili, dove chiedevo informazioni praticamente inutili, per diluire, diciamo, questo veleno. Per mandarli un po' più nel profondo, ecco. Per mandare un po' più nel profondo, che quando si cerca il mio nome, nelle prime pagine compaiono un sacco di informazioni inutili, neutre, e quindi sia più difficile. E non quello che lei pensava che fosse una chat riservata in un newsgroup, che è uno strumento usato poco oggi, quasi più per niente. No, dunque, io non ho mai pensato che fosse riservata, però l'informazione dai server dopo qualche settimana veniva cancellata perché diciamo la memoria dei server era limitata e quindi diciamo a me mi stava bene che l'informazione permanesse. D'altronde, se lei voleva informazioni concrete su uno stato di salute era giusto che le cercasse, se non si pone in gioco non le può trovare, quello è il problema, e l'ho capito perfettamente. Andrea Rossetti, su questo problema, anche perché ho visto notizia che ultimamente anche i post sui social network potrebbero apparire indicizzati nei motori di ricerca, cos'è da dire? Sì, è lo stesso problema di prima, no? Non è tanto il fatto che io metto delle cose online quanto la facilità con le quali queste cose possono essere recuperate, trovate. Effettivamente con motori di ricerca estremamente efficienti come Google, qualunque cosa io metto online potrebbe essere pescato. Questo non avviene con Facebook ad esempio, no? Perché Facebook è in realtà proprietà, insomma, o ha a che fare con il principale concorrente di Google, ossia Microsoft, quindi Facebook fa in modo che Google non possa indicizzare più di tanto i contenuti che vengono dentro di esso. prodotti. Se però domani effettivamente Facebook si aprisse a Google, beh, avremmo davvero la possibilità di radiografare l'esistenza di una persona che abbia usato Facebook per molto tempo in una maniera davvero inquietante. Ma io credo che un po' per tutti, no? Da quando Facebook ha cambiato forma, è diventato timeline, insomma, io francamente sto più attento ad esempio a postare. Perché, quindi è giusto che c'è l'ascoltatore che aumenta il livello di maturità. Una battuta, avvocato Imperiali, perché stiamo chiudendo, abbiamo proprio veramente sì, io credo che sia anche un altro tipo di problema, che è l'associazione fra le informazioni. Certo. Quindi non è solo quello che io metto su internet, ma anche come queste varie informazioni vengono poi associate da qualcuno. La possibilità di creare un dossier mettendo una profilazione. Una profilazione. Ecco, la profilazione, che è un termine che piace molto ai pubblicitari, perché ricorda la possibilità di trasformare in profitto ogni passaggio in rete di una persona, quando la profilazione è fatta con un intento malevolo, cioè di farmi fatti di una persona per avere un potere su questa persona, per poterla ricattare o semplicemente per assumere su questa persona informazioni al di là della sua volontà di darmele, diventa un elemento totalmente negativo. Beh, penso che oggi abbiamo chiuso la trasmissione, siccome ieri siamo stati brutalmente sfumati, oggi diamo 30 secondi in anticipo alla sigla che ci porta via. A domani, anzi a lunedì.